sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello? Vabbè, la provo, dai, tanto peggio di così. Con questa la usi solo il 2%. È buona, eh? Scompare! L'altra sera ho conosciuto la maiale su peso bocco, portate sul zoom e gliel'ho buttato! Io sono stato tormentato nell'ultimo fine settimana tra due punti di vista che pensavano entrambi o ambivano entrambi di leggere nel profondo la nostra società. Sono due film nazionali che normalmente dovrebbero, secondo vari punti di vista, avere la chiave di lettura della contemporaneità. L'uno è il film Italiano Medio di Macio Capatonda, avete sentito della sigla d'inizio. L'Italiano Medio è la radicalizzazione di tutti i nostri estremismi, dall'accezione e la presa in carico di tutte le possibili teorie sulla salvezza del mondo, sulla vita ecologica, sulla religione del rispetto della natura, all'improvviso repentino diventare coatti radicali. È un film che trapela odio per l'umanità e è sana e vitale è presa di posizione nei confronti di quello che noi siamo. Noi siamo un popolo totalmente scellerato che ormai ha perso radicalmente quello che è la sua caratteristica principale e si butta pesce in tutte le esasperazioni facendo le sue e portandole ai massimi sistemi. Poi un altro film, per cui le mie amiche sono andate in visibilio, che bello, sono uscite commosse, improvvisamente hanno visto tutti i loro cari e belli amichetti, tutti quei simpatici signorini che hanno tempo di passare le serate a fare aperitivi. È il fantasmagorico Nome del figlio di Francesca Archibugi, che racconta la storia di irreali e patinati, sempre adolescenti però ormai adulti, in una bellissima casa, si immagina romana, probabilmente del quartiere Parioli o del quartiere Prati, piena di libri, trasudante di libri, sembra quasi uno di quei librai che vendono libri usati e non sanno più dove infilarli, con fantastiche terrazze, con bei mobili, con fantastici accessori, loro tutti lì, carini, nostalgici, che ancora sembra che vivano i tempi del liceo e tutti macerati nei loro interrogativi eterni, chi siamo, dove andiamo, dove andremo. Ecco, tu hai detto il mio aggettivo, io dico il tuo, tirchio. No, Sandro, non è tirchio. Cosa hai regalato a Bim per il compleanno? Un fischietto. Un fischietto da capostazione. Qui passano i treni, si diverte tantissimo. Ma un fischietto di plastica! Ma sempre meglio di quel coso telecomandato che gli hai regalato tu, che ci angoscia la vita. È l'iPhone a scintilla, Paolo, che non ce l'abbiamo nemmeno noi. No, Sandro, adesso ce l'ha, se l'è preso lui. Beh, siamo contrari a questi regali ai bambini, siamo contrari. Vabbè, ta mamma ti portava a Londra a comprare le scarpe, ora vai in giro con le Prada taroccate come un'extracomunitaria, dai. Pure te, Claudio, svegliati. Giuseppe Sanzonna, buongiorno. Buongiorno. Dove siamo? Dove andremo noi? Abbiamo fatto nostro ormai l'assioma da generazioni di trasmissioni fatte assieme che la commedia italiana ha sempre raccontato il paese, ha sempre visto oltre, ha sempre dato una sorta di premonizione quasi sciamanica di quello che noi eravamo, e quindi rileggiamo il passato attraverso la commedia molto di più di quanto lo leggiamo attraverso libri di storia. Ma chi più in questo momento imprigiona il senso della contemporaneità? Francesca Archibugi con i suoi strafighettoni ormai marciti e spalmati nelle sue terrazze, o Macio Capatonda? La domanda mi sembra retorica, ma certo. Ovviamente Macio Capatonda è quello per cui noi propendiamo, a noi piace questa macchina trita linguaggio, questo è già il parlato loro dei personaggi di Maccio Capatonda, soprattutto di Herbert Ballerina, alias Luigi Luciano, questo personaggio che è la sua spalla eterna, che è questa sorta di straniato disincanto rispetto a tutto ciò che accade, e il loro modo di proporre un impasto di linguaggio televisivo sgrammaticato che denuncia l'analfabetismo di ritorno che ci coinvolge e ci contamina tutti. Vedi, sentivi come erano carini invece i dialoghi a casa Archibugi, totalmente, no? Finti, hanno quelli che dicono: io non compro la televisione perché leggo dei libri, io non ho l'iPhone di ultimo modello perché non sono coatto, ma in realtà è totalmente la generazione più schiava di tutti gli status possibili e immaginabili. Sì, e sono vittime anche in scrittura, sono personaggi già scritti, quelli di Maccio Capatonda sono anche sgradevoli a vedersi. Parte dalla sgradevolezza di immagini rubate e fatte così per il web all'inizio, però con grande inventiva e grande capacità recitativa. Accede al cinema, al lungo respiro del cinema, e si porta dietro il portato di questa sgradevolezza, che però è vera, è autentica, lo specchio deformante e reale di quello che siamo. Ciao, mi chiamo Giulio Verme, sono un tipo Soladium. Ma questo è un coglione! I miei valori sono la famiglia, la prostituzione e la gazzosa. Io non riesco a capire, è completamente un'altra persona, è impossibile. Il nostro leader! Non basta! Non basta! Mamma, che cazzo me la prego! La trama, senza fare spoiler, la riassumiamo velocemente. Questo personaggio animalista, ecologista, vegano, tutto quello che vuoi per essere buono, che avrebbe trovato una fantastica collocazione probabilmente nella terrazza dell'Archibugi, fosse stato un po' meno morto di fame, un po' meno coatto, un pochino più patinato, un pochino più di alta Roma, avrebbe trovato collocazione, comunque c'era più o meno. Prende la fantastica pillolina e diventa un coatto. Improvvisamente esplode la coattaggine, che è la cifra più identificativa del successo del nostro paese. Dimentichiamo quali sono i politici che più riscuotono in questo momento successo in televisione, quali sono i giornalisti maggiormente riscuotono successo, quali sono gli opinionisti maggiormente riscuotono successo. Noi abbiamo la coattaggine come il vero, la vero indicatore del valore dell'esistenza, e qui Capatonda in realtà la interpreta al massimo livello, senza prendere le distanze, senza sentirsi schifato o contaminato, diventa profondamente il coatto nazionale. Sì, lui parte in realtà dal personaggio impegnato, ma impegnato da tastiera, un tempo tu li chiamavi divanados, no? Sì. Quei personaggi lì, ovvero che si esprime per slogan, che scrive caps lock su Facebook, proclami vari. Poi, come nelle folli notti del dottor Jerry, come Jerry Lewis, prende questa pasticca che gli dà Herbert Ballerina, che gli permette di passare dal 20% del cervello al 2%, e quindi diventa il coatto che può accedere nei privé delle discoteche, insomma, appunto, diventare un fagocitatore, una macchina trita sesso. Ma ci sono delle figure straordinarie qui, come reality per avere successo, in cui c'è un simile briatore coi capelli fucsia, che è un'altra delle figure storiche del mondo di Maccio Capatonda, che esprime quello che è realmente l'accesso al successo, i calciatori ipertatuati. È veramente un mondo scimmiesco, un pianeta delle scimmie perenne in cui noi viviamo, e che lui riesce a restituire attraverso questa sorta di affresco corale. Ecco, noi facciamo un passo indietro, perché pensiamo che esista sempre questa schizofrenica dualità nel raccontare il nostro paese, con varie epoche, varie fasi e vari momenti artistici anche delle persone che hanno raccontato l'Italia. Ecco, facciamo qualche esempio, poi con Sanzon faremo vedere come i raccontatori dell'Italia in realtà si sono alternati in momenti di alto e di basso, di lettura ispirata e di fantastico turlupinare le persone che li seguivano. Qua non siamo in vacanza, tu sei sotto la mia tutela, quindi vedi di rigare dritto. Da quando ci siamo trasferiti il nostro matrimonio va molto meglio. Vittorio è diventato molto più frizzante. Ciao Fulvio, si sarà sfiatato durante un viaggio. Tenete internet. Fredo, fai un internet al signore. Computer. Terra. WhatsApp. WhatsApp pater. Ecco qua in quale fase ci troviamo, Giuseppe. Questo è Natale, si accettano miracoli di Siani, che insomma è la sbiadita ombra del Troisi, purtroppo assente, ma è troppo rimpianto. Allora qui sembra. Sì, che poi ha raccontato il suo tempo, Troisi. Oggi non so quanto racconterebbe la contemporaneità. Chissà, però la sua era riuscita a coglierla. Sì, quella bene. L'ha colta bene, sì. Qui invece Guareschi, in confronto a questo tipo di cinema che viene fatto oggi, sembra Fassbinder, cioè la provincia italiana, sempre da Mulino Bianco, sempre in piena luce, levigata, come una sagra strapaesana di felicità, no? Non c'è nessuna ombra nella provincia. Sì, anche come grana, diciamo, di pellicola assomigliano a quegli orrendi telefilm fatti dalla Rai in prima serata, più o meno, come luce. E quella luce estrema da villaggio vacanze, da spot del gelato col cornetto. Bravo, perché non ci deve essere appunto discontinuità fra lo spot e quello che stai vedendo, sennò non c'è l'attrito, il consumatore poi non accede al prodotto. E quindi viene in quella chiave anche linguisticamente proposto questo tipo di immagine. Ma fuori c'è una realtà invece piena di spunti devastanti e affascinanti come quelli del nostro paese. Ti cito un esempio meraviglioso: durante i tragici fatti di Charlie Hebdo, c'era il video wall del TG1, a un certo punto staccano l'inquadratura e il mezzo busto del TG1 fa: ma stacchiamo da Parigi e veniamo a noi. Cioè, Terence Hill, come mai è vestito da Ranger qui nello studio del TG1? E c'era Terence Hill effettivamente vestito di tutto punto da Ranger, che con questo accento improbabilmente italoamericano diceva: perché io voglio che in Trentino non buttate la carta. Cioè, appunto, esprimeva questa voglia di educazione, di senso civico. Ecco, già questa schizofrenia fra il mondo che va in una direzione e noi è già interessante, è già stimolante per raccontare nuove commedie. È già un episodio dei mostri questo. Cos'è, un suo parente il giovanotto? Tu canta, canta. No, è un amico mio, ma siamo come fratelli. Io ci do una mano per farci guadagnare qualche soldo, Morella. Ma non avete pensato mai a farlo visitare da qualche specialista? Perché c'ha via i denari, no? Meglio aspettare la grazia di Sant'Antonio. Io non sono affatto d'accordo. Mette capo, eccellente, mette capo. Secondo me invece c'è qualche cosa da fare. Ma di dove? Dai, buon! Naturalmente, prima dovrei visitarlo con calma, esaminarlo bene. Ma ci sono molte speranze. Ma come, di riacquistare la vista? Si capisce? Vedi quel cartello clinica oculistica? Ecco, io l'ambulatorio lì. Ah, ho capito. Se lei me lo porta. Qua abbiamo fatto un bel salto indietro per far capire l'altro punto di vista, la lettura crudele della nostra crudeltà genetica. Io citavo per l'appunto i mostri, e i mostri è arrivato. Questo è Gasman mendicante, che ha questo compagno di miseria che però vuole mantenere cieco, anche se un medico nota che si potrebbe salvare, non ce lo mantiene cieco, così possono continuare a fare soldi, a chiedere soldi, a chiedere un'elemosina. Allora, queste raffigurazioni oggi sono troppo taglienti per il mainstream italiano, per il cinema italiano. Non sarebbero tollerabili, perché sono di fronte, hanno soltanto l'oscurità, la voragine. Non c'è un barlume di luce, non c'è Mago Zurlì con la sua bacchetta magica e poi fa tornare tutto il lustrino. No, c'è una crudeltà che però forse vista, almeno denunciata, potrebbe far drizzare verso nuove direzioni anche nella vita, non nel cinema. Allora, invece il cinema diventa un po' da telefoni bianchi, edulcorato, spalmato di una vernice di bontà, e la realtà invece è tutt'altro. Melog, cronache meridiane. La merda del maiala, degli stronzoli nel culo, delle poppe pien di fiscio con gli stronzoli che escano dalle poppe dei budelli, dei vitelli con le cosce della sposa che gli sorte fra le cosce troppi e seghe dentro i cazzi, troppi cazzi dentro il culo che gli spuntano dalle cosce che gli tornano dalle gambe con la mamma nel pompino della nonna che gli schianta dalla... Altro che canti del paradiso e 10 comandamenti, questo era il Benigni vero, quello di una volta, quello di Berlinguer, ti voglio bene. Il povero Cioni finalmente riusciva a avere il barlume di un contatto fisico con una donna alla festa dell'unità, e gli amici gli fanno questo scherzo crudelissimo, dicono: la tua mamma sta per morire, corri a casa. E lui pronuncia questa lunghissima bestemmia interminabile che dura per tutto il viaggio a piedi verso casa. Poi era tutto uno scherzo. E in realtà poi no, un altro Benigni, il Benigni che tutti oggi conoscono e tutti oggi mettono sugli altari. Innamoratevi, se non vi innamorate è tutto morto tutto, vi dovete innamorare, diventa tutto vivo, si muove tutto, dilapidate la gioia, sperperate l'allegria, siate tristi e taciturni con l'esuberanza, fate soffiare in faccia alla gente la felicità. E come si fa? Fammi vedere gli appunti che mi sono scordato. Questo è quello che dovete fare. Non sono riuscito a leggerli, ora mi sono dimenticato. Per trasmettere la felicità. Dimenticando che c'è qualcuno che si muove anche se non si innamora, no? Bisogna essere innamorati, volersi bene. Sansonna, dammi un tuo giudizio su questa collazione fra un Benigni d'antan e un Benigni quasi contemporaneo. Ma in meno di 30 anni si è passati dal Pinocchio punk sdrucito, boccaccesco che era, e anche però disperatamente vitale e autentico, a questa retorica della poesia sempre maiuscola, sempre da parodia dell'attimo fuggente, che tra l'altro era un film assolutamente sopravvalutato. Pessimo, ha fatto più danni alla scuola col film mondiale che, non so... Salire sui banchi, mio capitano, anche lì la retorica della libertà, che se non sali sul banco non sei libero, anche con... Cioè, e il sentimento non deve essere così per forza sbandierato, magari c'è qualcuno che ha più pudore e lo esprime in maniera diversa, tornando al discorso, no, ma la retorica di Benigni invece è tutta questa poesia enunciata, declamata, assolutamente stentorea e monumentale, che però nasconde forse una mancanza ormai di ispirazione, mancanza anche di contatto col reale, col profondo, col sentimento sincero. Quello cos'era, La tigre e la neve, sì, no? Sì. Un film orrendo, dimenticato subito. Sì, per fortuna sì, con questo ritorno in Iraq, con Jean Reno costretto a fare il poeta, insomma, con apparizioni surreali. Ma appunto... Cioè, quando... ma era una fase intermedia prima proprio del definitivo slancio mistico. Sì. Prima che si facesse prete ancora c'era questa via di mezzo. C'era sulla realtà del piccolo diavolo, no? C'erano queste... Ma sai, quando uno perde... Io ho la sensazione che quando uno perde di vista il contesto da cui proviene, il contesto, l'humus antropologico da cui proviene, anche i propri tinelli, i propri malodori dalla vita, ecco, lì quando si stacca da quello e poi cerca di fare con questa poesia chepliniana, universale, forse toppa, insomma, perde di vista... Poi già esiste, già è stata fatta. Tony Brando, che ti serve? Come stai messo con la Rai? Io sto ai lavori pubblici. Dici di seguirmi, dovresti saperlo. Mauro, tu mi devi soltanto far sapere quanto deve durare ancora questa condanna nei miei confronti, questa vendetta, questo ostracismo ingiusto. Te la ricordi quella mia canzone, Collan Collan? È stata in classifica perfino in Giappone. Ho vinto il Samurai d'Argento. Ma insomma, 15 anni fa l'ho lanciata in diretta a sto cacchio dei Festival d'Aragni. A un certo punto, sul finale, ho fatto solo così. Collan... E con la mano ho sfiorato un attimo il pub, che poi adesso fanno tutti, porca puttana, fanno cani a porci, che adesso se levano le mutande e te dire un'indiretta, e che io ho avuto il torto di anticipare il discorso di Madonna, il discorso di Prince. Questa è ragno, ho capito, ma lo schiaffo? E me l'ha dato dietro le quinte un dirigente rap, sta stronzata. Oh, da quel momento, le porte chiuse. E qua abbiamo sempre la solita generazione, dei compagni di liceo, che si fidanzano con le compagne di liceo, poi si sposano, poi si vedono dopo tanti anni e poi attingono sempre a quei vincoli ipocriti, farlocchi, inesistenti, di amicizia, di cameratismo, quando ormai sono loro che hanno in mano le leve della società, più o meno tutti, c'è sempre poi lo sfigato che rimane fuori. Questa era compagna di scuola, alla fine degli anni Ottanta Verdone propone questo ritratto generazionale, quello che forse è uno dei suoi film migliori. Qui c'è Massimo Ghini che fa il perfetto. Un grande freddo all'italiana, una cosa del genere, sì, già visto comunque. Beh, però comunque conservava un certo veleno qua e là. Per esempio il personaggio di Tony Brando, di Christian De Sica, che è perfetto, mesciato, con questa giacca a spalline larghe che fa il cantante, appunto molto discutibile, e che supplica un favore dall'amico politico. Ecco, questi spaccati di realtà ancora c'erano. Adesso anche nell'ultimo Verdone, anche lui è molto edulcorato, molto ecumenico, la voglia di trasmettere dei valori tutti interi, dei messaggi che insomma affossano poi anche il discorso artistico. Ma non è che, diciamo, tutti i nostri autori alla fine hanno dentro di sé la vena nascosta del santone, del maestro di vita? Ma perché nessuno ha il coraggio di dire: io morirò facendo il comico, facendo la persona che fa ridere, fa riflettere, che graffia? No, alla fine vogliono tutti diventare dei grandi padri putativi dell'umanità. Perché appunto vogliono essere dei profeti, vogliono essere accettati come tali, e non accetto il fatto che non si può piacere a tutti, bisogna spiacere ogni tanto almeno a qualcuno, insomma, per vivere. Questa è casa mia, frappicata con le mani mie, pantone su pantone, e voi ci abitate come all'albergo, a gratis, e senza cacciare una lira. Bello, bello, zio, bacio cuore, brrr, io me lo mangerebbe, bello, oppla, oppla, dolce. Ma che è nato, ma io ho il sangue alla testa, no. Ecco, questo, prima che tu lo spieghi e lo anticipi, è il film più bello nella direzione della rappresentazione sgradevole del nostro paese. Negli anni 70 ancora c'erano dei baraccati che vivevano come oggi noi immaginiamo che vivano delle popolazioni nelle parti più arretrate del terzo mondo, con vista sul cupolone del Vaticano. Erano i veri baraccati di Valle Aurelia, dove il capo famiglia, il pater familias pugliese, tra l'altro per l'occasione, Nino Manfredi, vive appunto circondato da questa umanità che poi Cipriano Maresco racconteranno in maniera diversa. Ma questo era ancora un film nazionale popolare, Cipriano Maresco già sono avanguardia. Era vero, veramente bestiale, c'era morte, sesso, tutto, sì, c'era, sì, sì, rappresentato in maniera veramente abnorme. Cercano di ammazzarlo col veleno per topi, perché appunto vogliono eliminare questo persecutore, tutto un affresco seliniano, no? Di, fra e lui si salva vomitando, infilandosi un tubo in bocca in una fogna, una cosa orribile, tanto si salva. Orribile, però era il cinema visto, il cinema popolare che arrivava in tutte le sale, e questo è importante. Se non ci fosse stato questo film, nessuno crederebbe oggi che a Valle Aurelia c'erano le baracche negli anni 70. No, no. Che cos'è sto dramma? Tu lo sapevi che mestiere facevo o no? E che adesso lo sanno tutti. Lo sa tutta l'Italia. C'è gente che non mi saluta, mi si nega al telefono. Gemma, l'altra sera, guardandomi l'anellino nuovo, mi ha detto, carino, cos'è scoppiata, un'altra guerra? E i tuoi figli? Sai cosa gli hanno fatti i compagni di scuola, Ricky? Gli hanno sputato in faccia e gli hanno detto, tuo padre è un porco che sfrutta il sangue dei negri. Vergogna! Ma che cazzo. Beh, ogni tanto aveva qualche lampo anche Alberto Sordi, come che si rimbecillisse con i netturbi, con i guidatori di carrozzelle e i tassisti. Sì, finché c'è guerra c'è speranza, e sicuramente appunto anche qui siamo nell'ambito nazionale popolare sordiano, però riesce a fare questo monologo in cui denuncia quanto il benessere dell'Occidente poi poggi sul malessere appunto africano, sulla vendita di armi, cose che oggi sarebbero impresentabili in contesti nazional popolari. Penso oggi fare il film di un italiano che vive commerciando armi, che ci sarà senz'altro, che è un commercio fiorente della nostra industria, non c'è nulla in fondo su questo di cui rammaricarsi, perché poi ci lamenteremmo se si chiudessero le fabbriche di armi dalle nostre parti. Per oggi nessuno avrebbe il coraggio di dirlo, allora qualcuno lo disse e qualcosa rimane, e qualche cosa nel nostro ricordo di quello che realmente siamo ancora lo conserviamo. Grazie Giuseppe Sansonna, alla prossima.